Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. A Destini incrociati vogliamo ricordare Robin Gibb, da poco scomparso, che insieme al gemello Morris e al fratello maggiore Barry ha fondato i Bee Gees. Per questo riproponiamo la puntata dedicata alla band australiana e al produttore Robert Stigwood. C'è un decennio del Novecento che sembra durare più degli altri, per la quantità e la densità degli avvenimenti che l'hanno segnato, per la radicalità e la forza di mode, tendenze, trend che hanno sconvolto il mondo. Sono gli anni 70. Sarebbe impossibile fare una ricognizione anche solo parziale e incompleta della sterminata quantità di accadimenti che segnano i 70. Ci accontentiamo di assaporare un dettaglio comunque fondamentale: la colonna sonora che ha accompagnato, spesso in primo piano, questo decennio chiave. C'è un fenomeno particolare che possiamo definire il cuore pulsante degli anni 70. Un trend di massa che nei cuori e nei sentimenti di chi era giovane in quel decennio richiama il sapore di quella stagione: la disco music. Con il termine disco music si fa riferimento a un genere musicale nato intorno alla metà degli anni 70 negli Stati Uniti. Si tratta di una nuova concezione della musica stessa, non più composta per essere ascoltata, ma per essere ballata. Una tendenza che indigna i puristi ed evidenzia le contraddizioni del decennio. Mentre tutto intorno si fa politica, impegno, la disco, come altre manifestazioni popolari, va in controtendenza e punta sulla leggerezza, sulla vacuità, sul disimpegno esplicito. New York, in questo senso, diventa la capitale del mondo. All'interno della Grande Mela c'è un luogo che diventa il tempio di questo approccio alla vita. È lo Studio 54. That's that big disco everybody's talking about. Al numero 254 della 54esima strada di Manhattan, tra la settima e l'ottava, in un ex studio televisivo, scintillano le straripanti provocazioni di uno dei club più famosi del mondo. Ogni notte va in scena la più grande festa del mondo. Scenografie scintillanti, musica assordante, confini sempre più labili tra lecito e proibito. Lo Studio 54 raccoglie uomini e donne di tutte le razze e di tutte le classi sociali. Lì dentro vige l'uguaglianza assoluta, non si fanno distinzioni, e i giovani ballano fino all'eccesso, staccando per qualche ora la spina da quel che accade nel mondo. Sotto l'enorme luna che campeggia nel club si agita un mare di paillette sberluccicanti, di pantaloni a zampa, di capigliature cotonate, di ciuffi plastici che fendono l'aria seguendo perfettamente le pulsazioni del ritmo. Una tribù del genere ha necessariamente bisogno di un messia, che arriva, emblematico, nel 1978. Signor Fosco, posso avere un anticipo? Lunedì è il giorno di paga. Lo so che il giorno di paga è il lunedì, ma in tutti gli altri posti è il venerdì o il sabato. E il lunedì non hanno più un soldo, si ubriacano e vanno a puttana. Che dici? Passano il weekend a buttare via i soldi. Se invece prendi i soldi il lunedì ti bastano per tutta la settimana e puoi mettere da parte qualcosa. Pensa al futuro. No, e chi se ne fotte? No, Tony, guarda che il futuro non si fa a fottere. Il futuro casomai fotte te. Quello t'aspetta sempre e se non sei preparato ti fotte. Per me il futuro è stasera, mi devo preparare. Devo comprare una camicia, una bellissima camicia. No, Tony, mi dispiace, ma non posso fare eccezioni. Un giorno che serve un favore a lei, ne riparliamo. Molti di voi avranno già riconosciuto questo scambio di battute. Questo Tony giovanotto, che pensa solo al presente senza preoccuparsi del futuro, altri non è che Tony Manero, personaggio protagonista di La febbre del sabato sera, un film destinato a segnare un'intera generazione. Il dizionario del cinema Il Morandini lo definisce un film che rappresenta il diffuso malessere di una gioventù senza ideali né prospettive, se non quella del ballo come trampolino di lancio e di evasione. In effetti, La febbre del sabato sera radicalizza il significato sociologico della disco music. I giovani delle classi subalterne delle periferie di New York, ai margini di qualsiasi chance di riscatto, staccano con il mondo e ribaltano le proprie sorti per il breve spazio temporale di una sera, il sabato sera, in cui sono loro i padroni del mondo. Il loro simbolo è Tony Manero, un ragazzo italo-americano che vive nella zona di Bay Ridge a Brooklyn, uno dei più grandi quartieri popolari della città di New York. Ha 19 anni e fa il commesso in un negozio di vernici. Abita con i genitori, la nonna e la sorella più piccola, Linda. Ha anche un fratello maggiore, Frank Jr., che è prete. Il sabato sera, però, si trasforma. Quando varca la soglia del club Odissea 2001, il mondo si capovolge. La febbre del sabato sera, nel pieno dell'esplosione della disco music, racconta una gara di ballo che Manero vince insieme a Stefani, ragazza istruita e di ceto sociale decisamente più elevato. Una vittoria che sa di riscatto e che farà cambiare al protagonista molte delle sue idee superficiali sulla vita. Il film diventa un vero e proprio monumento per le giovani generazioni, nonostante il basso budget e qualche vicissitudine produttiva iniziale. Il motivo principale, però, non risiede nella trama. Da un lato, l'attore e protagonista John Travolta, con la sua camminata indimenticabile e il suo fascino indiscutibile, segna una fetta di storia del costume. Dall'altro, però, un ruolo determinante viene giocato dalla strepitosa colonna sonora. Il brano che avete appena sentito non ha bisogno di troppe presentazioni. Si tratta di Stayin' Alive, un monumento della disco music. La band che porta questo successo al vertice della hit parade si chiama Bee Gees, è britannica, ma raggiungerà il grande successo negli States. Dietro al suo successo c'è la storia del nostro incrocio di oggi, una storia di tenacia, lungimiranza e grandissimo intuito. Il nostro primo personaggio di oggi è il leader di questa band. Barry Gibb. Barry Gibb. Parlando dei Bee Gees, in realtà, è piuttosto difficile indicare un leader. Barry Gibb è probabilmente la personalità più forte di una band costituita da tre fratelli, oltre a Barry, Robin e Maurice Gibb, gemelli di 3 anni più giovani di Barry. I fratelli Gibb sono nati in uno dei luoghi più incantevoli e controversi del Regno Unito, l'isola di Man, una sorta di cuscinetto semi-indipendente tra la Gran Bretagna e l'Irlanda, ma sono cresciuti a Manchester. Qui i fratelli scoprono la loro passione per la musica. La leggenda vuole che quando hanno all'incirca 10 anni vengano ingaggiati per esibirsi in playback in un teatro della città. Il disco su cui avrebbero dovuto fingere di cantare, ironia della sorte, si rompe. I Gibb cantano dal vivo e il teatro viene letteralmente giù. Proprio Barry, però, il più vecchio, nella città di Manchester, cresce in maniera piuttosto turbolenta. La mia non è stata un'adolescenza tranquilla. Anzi, ero entrato in un brutto giro a Manchester. Era piuttosto facile negli anni 50. Così, anche e soprattutto per questo, i miei genitori hanno preso una decisione radicale: andare via dalla Gran Bretagna. Direzione Brisbane, Australia. La famiglia Gibb si trasferisce in blocco quando Barry riceve una condanna con la condizionale per atti vandalici. In Australia i fratelli Gibb, che sono 4, capiscono cosa fare della loro vita. Io e i miei fratelli suonavamo già da un po' di tempo e ce la cavavamo piuttosto bene con il canto. Il nostro obiettivo era tirare su qualche soldo. Così iniziamo ad esibirci a tempo perso in locali veramente squallidi, nel tentativo di raggranellare qualcosa. Riuscimmo presto a riscuotere un buon successo e ad attirare le attenzioni di alcuni discografici. I fratelli fanno chiamare la band dapprima Rattlesnakes, poi We Johnny Hayes and the Blue Cats. Il nome Bee Gees arriva nel 1960, quando giunge anche la prima esibizione televisiva. A sceglierlo è un produttore australiano che si chiama Bill Gates, ma non ha niente a che fare con Windows. Su suggerimento di un cacciatore di talenti di nome Bill Goody, i fratelli Gibb fanno un provino davanti a Gates e strappano il primo ingaggio televisivo, il trampolino di lancio per un rapido e consistente successo in tutta l'Australia. La canzone che sentite in sottofondo si chiama Wine and Women. È il singolo che i Bee Gees cantano nella loro prima esibizione televisiva. Direste mai che da qui possa prendere le mosse una delle più grandi band della disco anni 70? In realtà, il percorso che porterà i Bee Gees tra le infuocate piste della febbre del sabato sera sarà lungo e tortuoso, ed è incentrato su un incrocio più che mai determinante per il loro destino. Nel 1966, i Bee Gees si avvicinano al loro destino incrociato, facendo ritorno in Inghilterra. L'ultimo singolo, Speaks and Specs, ha spopolato anche nel Regno Unito, quindi i fratelli Gibb pensano che sia ormai tempo di fare ritorno in patria. Una band che aspiri a un successo davvero consistente necessita anche di un manager di livello. Barry Gibb si mette alla ricerca. Noi ci siamo impegnati per trovare un manager. Invece è stato il manager a trovare noi. Già piuttosto noti anche in Gran Bretagna, i Bee Gees vengono contattati da un giovane rampante manager che ha appena messo sotto contratto una band di talento come i neonati Cream. Il manager dei Cream è rimasto profondamente colpito dal songwriting di Barry e dei suoi fratelli, delle performance live impeccabili dei Bee Gees, dall'impasto armonioso dei loro intrecci vocali, e si propone loro come agente, mettendo sul piatto idee brillanti, dinamiche e innovative. Si rivelerà l'uomo decisivo per scrivere una pagina di storia della musica. Il suo nome è Robert Stigwood. Robert Stigwood. Dire Robert Stigwood oggi, per gli appassionati di musica, significa fare riferimento a decine di pietre miliari nella storia del pop, ma soprattutto nella storia del musical. Eppure, proprio il fortunato incontro con i Bee Gees si rivelerà il grimaldello che gli aprirà le porte dell'Olimpo musicale. Robert Stigwood in Australia ci è nato e cresciuto, e ci è rimasto fino all'età di 21 anni. Fino a quell'età ha fatto il copywriter per un'agenzia pubblicitaria, guadagnandosi un discreto successo. Poi ha cominciato a vedere la grande isola australiana come troppo piccola per le sue ambizioni ed è partito alla volta di Londra. Nella capitale del Regno Unito, Stigwood ha dapprima aperto un'agenzia teatrale. Poi ha virato la sua attività verso la produzione di film pubblicitari. Infine, ha imboccato la strada del mercato discografico, diventando di fatto uno dei primi produttori di successo del contesto britannico, anche grazie alla hit Johnny Remember Me di John Layton. When the mist is rising and the rain is falling and the wind is blowing cold across the moon. Con questo brano, Stigwood diventa il primo produttore inglese indipendente a scalare la hit parade fino al primo posto. Siamo a circa metà degli anni 70 e Stigwood è già uno dei personaggi più caldi dell'industria musicale britannica. Brian Epstein, mitico manager dei Beatles, gli propone di unire le loro forze nella sua NEMS. Questo avviene nel 1967, quando parte la caccia a nuovi talenti. Fra i primi gruppi che Stigwood mette sotto contratto nella sua permanenza alla NEMS ci sono proprio i Bee Gees. I fratelli Gibb sono ancora solo dei ragazzini, ma Stigwood, vedendoli in televisione, capisce il loro straordinario talento e decide di investire su di loro, tentando di trasformarli in un vero e proprio fenomeno di costume. Il produttore investe circa 50.000 sterline in un tour promozionale quasi infinito, sollecita DJ e produttori televisivi affinché promuovano la band. In questo modo i Bee Gees decollano. Avevo visto in loro un talento straordinario. Avevano capacità melodiche fuori del comune, ma poi c'era il fatto familiare. Erano fratelli e questo poteva essere un ulteriore elemento di successo. Fatto sta che i Bee Gees arrivano al successo internazionale proprio grazie a Stigwood. New York Mining Disaster 1941 e Massachusetts fanno il botto in tutto il mondo. Il loro è un pop melodico molto intrigante. Sono destinati a diventare icone della disco music, sempre grazie a Robert Stigwood. Destini incrociati. Pantaloni a zampa, paillette, ciuffi ribelli e le scenografie imponenti dello studio 54. In poche parole, la summa della disco music, il volto frivolo degli anni 50. Tra gli eroi di quel periodo aureo, indubbiamente, i Bee Gees, autori della colonna sonora del leggendario film Saturday Night Fever, con John Travolta nel ruolo di Tony Manero. Al successo, però, i Bee Gees arrivano alla fine degli anni 60 grazie al talento e all'intuito del produttore Robert Stigwood. Grazie a un pop melodico impreziosito da raffinati intrecci vocali, la band inglese scala le hit parade di mezzo mondo. Nel 1968 i Bee Gees entrano nella UK Top 10 e nella USA Top 20 con Words, il loro primo singolo, destinato a raggiungere la Top 30 anche in Italia. Nell'estate del 1968 il gruppo arriva per la prima volta nella Top 10 americana con I've Got a Message to You, il loro secondo numero uno in UK. Nel 1969 arriva un altro successo da Top 10 USA, I Started a Joke. Il gruppo è sulla cresta dell'onda ed è destinato a rimanerci per diversi anni, almeno fino alla metà degli anni 70. Poi il vento cambia. Intorno alla metà degli anni 70 impazza la disco music venata di rhythm and blues. Spopolano artisti come Patti LaBelle, Sister Sledge, The Tramps. Anche altri generi subiscono progressivamente contaminazioni disco. Rolling Stones, Rod Stewart, Kiss, per citare qualche esempio, contaminano il proprio rock con elementi disco. New York è il nuovo centro. Il Paradise Garage e lo Studio 54 sono le discoteche di riferimento. La prima è l'esatto opposto della seconda. Il Paradise suona disco underground mixata da Larry Levan e ospita VIP che ballano indisturbati mescolati a gente normale, mentre lo Studio 54, che propone disco music di successo mixata da nomi come John Jellybean Benitez, Tony Carrasco e Tony Humphries, è il grande club delle star ed accedervi è difficilissimo a causa della rigida selezione all'ingresso. In questo panorama complesso, il pop melodico dei Bee Gees imbocca la via di un declino rapido e polveroso. Il gruppo passa anche attraverso alcune modifiche di line-up, causate da alcuni bizzosi comportamenti dei fratelli Gibb. Ad esempio, Robin lascia il gruppo all'inizio degli anni 70 per dissapori con Morris, e quest'ultimo, con Barry, decide di continuare senza di lui. Esce così un nuovo singolo, Tomorrow Tomorrow, ma è Robin ad avere un grande successo con il suo primo singolo, Saved by the Bell, della quale esiste la rarissima versione italiana Salvato dal campanello. Robin ha inciso pure la versione italiana di un'altra canzone inclusa nel suo primo album Robin's Rain, 1969. La canzone era Agosto-Ottobre, August-October. Nell'estate dello stesso anno Barry e Morris realizzano uno special TV intitolato Cucumber Castle, nel quale cantarono il loro nuovo grande successo, Don't Forget to Remember. Robin rientra nel gruppo pochi mesi dopo. I Bee Gees si trovano quindi nella necessità di dover aderire in qualche modo al fenomeno della disco. Negli album usciti a metà degli anni 70, Mr. Natural e Main Course collaborano con il produttore americano di origine turca Arif Mardin. Questo li orienta verso sfumature più rhythm and blues. È il ponte ideale per arrivare alla disco music. Approdo che giunge nel 1977, sempre grazie a Robert Stigwood, che nel frattempo, grazie a Jesus Christ Superstar, era diventato uno dei grandi nomi del musical americano. We'll be right back. La prima intuizione di Stigwood è questa: allargare all'inizio degli anni 70 il ventaglio dei suoi lavori anche al cinema e alla televisione. La seconda è quella di specializzarsi nelle trasposizioni cinematografiche di musical di Broadway. Il cinema, in questo senso, permetteva di raggiungere molto rapidamente un pubblico più vasto. L'effetto benefico delle versioni cinematografiche si ripercuoteva immediatamente anche sulle produzioni teatrali, ma soprattutto sul mercato discografico. Dopo Jesus Christ Superstar, arriva Tommy, nel 1975, uno dei musical cinematografici di maggiore successo di tutti i tempi. Nasce la Robert Stigwood Organization Film, che va a integrare la sezione discografica della casa di produzione. In questo modo Stigwood può opportunamente intrecciare le produzioni musicali e cinematografiche senza tralasciare una cura maniacale di tutti gli aspetti riguardanti il merchandising. Così, nel 1977, Stigwood si butta nella produzione di un film sul fenomeno della disco music, La febbre del sabato sera. Una scommessa. La disco è sulla breccia da ormai un quinquennio e molti analisti la danno prossima a un drastico calo. Nonostante quello che mi veniva detto, a me pareva il periodo più propizio per lanciare un'operazione di questo tipo, proprio perché la disco aveva arrestato la sua crescita di consensi e non ci saremmo scontrati con una situazione troppo inflazionata. Contemporaneamente, Stigwood e i Bee Gees stanno lavorando a una serie di brani dall'impronta inequivocabilmente disco. Stigwood propone di alzare la posta. Robert ci suggerì di rischiare il tutto per tutto, tentare il grande colpo con un doppio album interamente disco, che potesse essere anche la colonna sonora del film. Era un azzardo, perché voleva dire segnare la nostra immagine in maniera molto marcata verso una direzione. Accettammo. Il film promuove i brani promuovono il film. Questa è la semplice idea di Robert Stigwood. Quello che succede dopo, però, nemmeno Stigwood può immaginarlo. Quando arrivò la proposta di Stigwood, avevamo 5 brani praticamente già pronti. Stayin' Alive, More Than a Woman, How Deep Is Your Love, Night Fever e If I Can't Have You. Accettando quella proposta, di fatto, rinunciavamo ad un album per gettarli nella colonna sonora del film, insieme ad altri 2 pezzi nostri più vecchi, come Jive Talking e You Should Be Dancing. L'uscita del film e della colonna sonora hanno l'effetto di una travolgente onda d'urto. Nel giro di poche settimane, il film scala le classifiche dei botteghini e si erge a trendsetter incontenibile. Il personaggio di Tony Manero diventa un'icona per giovani e meno giovani appassionati di disco music. La sua camminata è imitata e indimenticabile, il suo abbigliamento va a ruba. Parallelamente, la colonna sonora del film raggiunge un successo senza precedenti, diventando l'album più venduto di tutti i tempi, e tale rimarrà fino all'uscita di Thriller di Michael Jackson. Pensate che rimarrà la colonna sonora più venduta fino all'uscita della soundtrack di Guardia del Corpo di Whitney Houston. Naturalmente l'album vince anche un Grammy come album dell'anno. I Bee Gees rinverdiscono il fenomeno della disco e se ne ergono a imperatori. Tutto grazie a una folgorante intuizione di Robert Stigwood. Destini incrociati. La febbre del sabato sera, un fenomeno di costume che nel 1977 scuote nel profondo la cultura pop. La camminata e le mosse di Tony Manero, alias John Travolta, fanno il giro del mondo. Travolta stesso diventa uno dei divi più osannati al mondo. Dietro a questo successo, il genio produttivo di Robert Stigwood e il talento dei Bee Gees guidati da Barry Gibb. I Bee Gees infilano una hit dopo l'altra e la loro colonna sonora del film diviene l'album più venduto e ascoltato di tutti i tempi. Nello stesso tempo, il più giovane membro della famiglia Gibb, Andy, il quarto fratello che è fuori dalla band, ha un momento di enorme successo con canzoni come I Just Want to Be Your Everything e l'incredibile successo Shadow Dancing, scritta insieme da tutti i quattro fratelli Gibb. Purtroppo Andy morirà prematuramente a soli 30 anni, nel 1988. L'enorme scia di successo è sfruttata dal tandem Gibb-Stigwood, anche grazie ad altre due incredibili hit scritte da Gibb e coprodotte con Stigwood, Emotion di Samantha Sang e Grease di Frankie Valli, altra travolgente colonna sonora di un musical destinato a spopolare. Grease, oltre al songwriting di Gibb e alle intuizioni di Stigwood, ripropone Travolta nel ruolo del protagonista. La colonna sonora del film diventa il secondo album più venduto di tutti i tempi, proprio dopo Saturday Night Fever. Alla fine del 1978, dopo tutti questi straordinari successi, esce il nuovo singolo dei Bee Gees, Too Much Heaven. E ovviamente raggiunge la vetta delle classifiche di tutto il mondo, e in particolare le classifiche americana e inglese, oltre a quella italiana. Viene seguito nel 1979 da altri due numeri uno, Tragedy e Love You Inside Out, per un totale di 6 numeri uno consecutivi. L'album Spirits Having Flown, che contiene queste canzoni, debutta al primo posto e resta al vertice per 12 settimane consecutive. In seguito viene pubblicata una raccolta di successi, il Greatest Hits dei Bee Gees. È l'ultimo bagliore prima dell'inizio del declino. Il più grande errore della carriera dei Bee Gees si chiama Sgt. Pepper, il film. Una commedia musicale che si rivela un flop totale, determinando anche il sorprendente insuccesso della colonna sonora scritta dai Bee Gees. È l'inizio di un declino che in seguito causerà la rottura con Stigwood. Le traiettorie di band e manager che hanno scritto le pagine più alte della disco music si separano. Stigwood, dopo il fallimento di Sgt. Pepper, si concentra prevalentemente sul teatro, dove riesce a produrre un altro grandissimo successo come Evita. I Bee Gees continuano la loro carriera abbandonando progressivamente la disco e ritornando alle sonorità pop degli inizi. Alternano ottimi successi a momenti di maggiore appannamento, impegnandosi anche in progetti solisti spesso di ottimo livello. Una carriera tutto sommato longeva, cui vengono però assestate dalla vita due autentiche bordate devastanti. Il 10 marzo 1988, il minore dei fratelli Gibb, Andy, muore per una malattia cardiovascolare, probabilmente risultato dell'abuso di droghe e alcol. Andy non faceva parte della band ufficialmente, ma aveva sempre gravitato nell'orbita artistica dei fratelli, aiutandoli nel songwriting e talvolta esibendosi con loro. Un duro colpo, da cui la band si riprende seppure a fatica, dedicando anche alcuni brani e alcuni concerti al fratello scomparso. L'ultimo album dei Bee Gees esce nel 2001 e si intitola This Is Where I Came In. Non immaginano che sarà il loro capolinea, ma il 12 gennaio del 2003, in seguito alle complicazioni di un blocco intestinale, muore Morris Gibb, la vera anima compositiva dei Bee Gees, una sorta di direttore artistico per la band. Robin e Barry ritirano il nome Bee Gees per rispetto del fratello e del grande affetto che li univa. Adesso che anche Robin se n'è andato, resta solo Barry a ricordare a tutti quanto i Bee Gees abbiano segnato la storia della musica. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wonder.